Victoria. Quando suonarono alla porta, Victoria controllò un'ultima volta i preparativi per la cena e si asciugò le mani sul grembiule che si era legata in dita per l'occasione. Aprì, sforzandosi di apparire sorpresa davanti ai due poliziotti che la guardavano con espressione seria. «Buonasera», disse con aria interrogativa. «Possiamo entrare?» Victoria annuì e si fece da parte. L'uomo si chiuse la porta alle spalle e si presentò come Olof Lon. Poi indicò la collega dicendo «E lei è Lisa Svensson». Victoria vide che sbirciavano le sue spalle, verso la cucina dove la tavola era apparecchiata per la cena. Olof Lon si tolse i guanti ed esitò. Le fece quasi pena. «C'è stato un incidente non lontano da qui. Alla guida della moto c'era suo marito, Malte Brunberg». Victoria trasalì, fissando il poliziotto. Olof Lon deglutì e scosse la testa. «È vivo? Malte è vivo?» «Purtroppo no, signora». «Siete sicuri che sia lui?» «Purtroppo sì. Aveva addosso la patente, e la moto è la sua». «Va bene, se... voglio dire, posso sedermi?» chiese Victoria indicando la cucina. Olof Lon la prese per un braccio e la fece accomodare con delicatezza su una sedia, mentre la sua collega riempiva un bicchiere d'acqua e glielo posava davanti. Victoria ne beve un paio di piccoli sorsi. «Cos'è successo?» I due agenti si scambiarono uno sguardo, prima che Olof proseguisse. «Non ne siamo del tutto sicuri. Sa se c'è qualcuno, magari qualche vicino, che ha l'abitudine di tendere dei cavi nel bosco?» «Cavi?» «Sì, dei fili metallici, tra gli alberi». Victoria si portò una mano alla bocca. Poi raccontò che la settimana precedente Malte aveva comprato un cavo dal ferramenta. Ce l'aveva con dei ragazzini che sfrecciavano a tutta velocità sulla strada nel bosco. Lei aveva cercato di dissuaderlo, dicendo che qualcuno avrebbe potuto farsi male, che di sicuro era vietato, ma lui non le aveva dato retta. «Perché ha preso la moto questa mattina? Il tempo non era dei migliori». Victoria alzò gli occhi. Era la prima volta che Lisa Svensson apriva bocca. «Non so. Adorava quella moto. Gli dicevo spesso di andare piano, soprattutto adesso, con il freddo. Ma non mi ascoltava». Una lacrima le fece capolino all'angolo di un occhio. «Ma come ha fatto a passare stamattina, se nei giorni scorsi aveva legato un cavo di traverso alla strada?» Victoria finse di riflettere un secondo. «La posta. La cassetta è sulla strada principale. Malte si fermava sempre a controllare la posta mentre andava al lavoro. Invece, per rientrare, deve aver fatto la solita scorciatoia che prendeva sempre quando era in moto. Deve essersi semplicemente dimenticato del cavo». Poi si allungò a prendere un pezzo di Scottex.